Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Mercoledì 8 febbraio, bentornati di nuovo. Living in a day and age where the heart and mind is separate, love and devastate. True, and how much can I take? All I gotta say is, can I float away? Can I float away? I look at life and all I got from it. Failures with some accomplishments. Growth after being buried. It's nothing short of astonishing. Struggles, I got a bond with them. People say we related. It's probably because I come from a place where people don't make it. But I got a feeling I might be one in a million. But I think it's groundbreaking. No power tools for the drilling. I'm that cracking your ceiling. I'ma let the light in. Why live like someone else when it's our own skin we die in? Never lost my fight. I'm just changing where I'm fighting. And to get to the arena, it takes being open-minded. Freedom, I'ma find it. Then put my name on it. I know that I'm the key, but I'ma break the chains on them, yeah. So the cycle can end. Then I'ma donate my heart to be recycled again. Yeah, it's crazy. I found life in a pen without having life in a pen. See, you gotta know the places I've been to understand the headspace that I'm in. Cause this cage I'm in is man-made and it's made for men, with space for every shade of skin. Where does grace begin? For those overcame by sin or lost souls never taken in. See, I can't pretend to be okay with the state we in. Will oppressors ever make amends? I highly doubt it. We're living in a day and age where the heart and mind are separated. Love the devil stays true. Now how much can I take? All I gotta say is, can I float away? Can I float? I lose my mind a little more every day that passes by. The depression from years of oppression I mask with smiles. I've been a slave confined to a cage since I was a child. I've escaped. Ritorniamo a... eccoci come 50 anni fa ai piedi del Monviso, a due passi dalle sorgenti del Po, con un pescatore che, come i suoi colleghi di 50 anni fa, pesca qui nel Po. È esattamente come allora? No, proprio come allora non è, adesso è un po' che pesco, ne ho prese solamente due, ma è già due ore, tre che pesco e non è più come allora. Perché non è più come allora? Ma perché ormai non possiamo più immettere gli avanotti e queste robe qua, e c'è sempre più pescatori, c'è sempre più gente che lo frequenta, però c'è sempre meno pesci. Ecco, per il resto questa zona è migliorata, è peggiorata? Ma secondo me peggiora un pochettino anno per anno. Perché? Ma non lo so, perché non c'è più tanto lavoro, perché i giovani vanno via e un po' tutto un sistema che non gira molto bene via. 50 anni fa Mario Soldati cercava, diciamo, la genuinità dei posti, anche dei cibi. Qui è ancora tutto genuino? Ma sì, penso di sì, che sia ancora tutto abbastanza genuino. Volete la ricetta delle ricette? Possiamo dire di avere trovato cibi e vini genuini. Possiamo dire di avere pranzato come bisogna pranzare soltanto quando, dopo, si gusta qualche cosa di più. Soltanto quando, dopo, si raggiunge il momento magico. Cari telespettatori, arrivederci alla prossima puntata. Buonasera, signorina Rita. Buonasera. Buonasera a tutti. Amaro Polone, signore. Thank you. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.